Mix 24 di Giovanni Minoli. Un mese fa, il 19 febbraio, è morto Umberto Eco, filosofo, semiologo, scrittore, uno degli intellettuali italiani più famosi all'estero. Grande esperto di comunicazione, Eco è stato anche un attento osservatore della nostra lingua nelle sue evoluzioni. Esattamente il 21 febbraio del 2011, Umberto Eco, invitato al Quirinale per festeggiare i 150 anni dell'Unità d'Italia, tiene una famosa conferenza in difesa della nostra lingua, che diventa anche una lezione di valenza politica. Vorrei soltanto iniziare con la citazione di una lettera mandata da Camillo Benso di Cavour il 17 marzo 1861 a Massimo D'Azeglio. De ce jour, l'Italie affirme hautement en face du monde sa propre existence. Da quel giorno l'Italia afferma fortemente in tutto il mondo la propria esistenza. È con questa frase che appunto inizia la sua Lectio Magistralis, una riflessione sulla lingua italiana come fattore di identità nazionale, realizzata da Gabriella Uberti. Le lingue evolvono, è il loro mestiere. E un lettore inglese che prendesse in mano i Canterbury Tales di Chaucer, che è scritto in Middle English, non riuscirebbe a capire niente. Mentre un italiano, prendendo in mano un testo scritto 60 anni prima di Chaucer, nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura, capisce benissimo. Questo cos'è? Una fortuna per i nostri scolari che non devono fare sforzi nelle scuole elementari e nelle scuole medie? No. È una sventura per un paese la cui lingua, non essendo stata parlata da mercanti, guerrieri, cittadini, eccetera, non si è evoluta. Eppure l'italiano è stato l'unico senso di italianità, perché si può dire che durante i secoli in cui, come voleva poi più tardi Metternich, l'Italia era soltanto un'espressione geografica, l'Italia nasce con Saoco che è le terre, perché le finiche chi contene. Ci troviamo, secondo Eco, di fronte a una prima contraddizione. Da un lato, l'unico elemento costante di italianità è stata la lingua. Ma dall'altro, l'italiano è rimasto segno di unità e di identità solo per i pochi che sapevano leggere e scrivere. Il risultato è una lingua poco parlata e perciò poco evoluta. E se questo è l'italiano di ieri, qual è l'italiano di oggi? Ora, pian piano, la lingua italiana, attraverso l'immigrazione, attraverso la televisione che impone un basic Italian, sia pure lessicalmente e sintatticamente minimo, ma in modo tale che si può legittimamente affermare che Mike Buongiorno ha fatto più per l'Italia di Giuseppe Mazzini, siamo arrivati a un diffuso italiano basico che nel contempo però ha distrutto e messo in crisi i dialetti, tanto che i linguisti che una volta auspicavano che si abbandonassero i dialetti per acquisire la lingua nazionale, oggi si stanno chiedendo come poter non buttare via questo prezioso patrimonio folclorico. E dunque, con la vittoria del Basic Italian sui dialetti, ci stiamo assestando su un italiano medio-alto, si chiede Eco? Che si risponde di no, perché intanto è intervenuta una nuova rivoluzione, un fenomeno linguistico nuovo, Internet. Se una volta i genitori parlavano dialetto, i figli erano i primi a introdurre in famiglia l'italiano, oggi il mio tassista che parla un italiano medio-alto ha i figli che non sanno più parlare italiano. Recenti esperimenti agli esami del primo anno del triennio danno uno studente che dice che le ragazze vengono fatte studiare dalle famiglie abbiette e, cercando di approfondire il problema, ignora la differenza tra abbietto e ambiente, mentre la pratica degli SMS ha portato uno studente a leggere su un testo di Nino Biperio, perché leggendo Nino Bixio ormai si è abituati che la X viene usata per e allora ha letto Nino Biperio. Fenomeno è paradossale perché questa è la prima generazione cresciuta su e con internet, e internet ha rappresentato il ritorno da una cultura esclusivamente visiva a una cultura di nuovo alfabetica. Però evidentemente per certe fasce giovanili, evidentemente non per tutte, internet non viene usato per consultare Wikipedia, che almeno è scritta in un italiano accettabile, ma per inviare immagini o inviare brevi messaggi. In più, questa generazione che non legge più giornali non guarda neanche più la televisione, dove almeno poteva trovare Vespa o Berlusconi, Bersani o Fazio che parlano un italiano tutto sommato ragionevole, almeno quanto alla forma. Forse in futuro, iniziando da Facebook e poi passando all'uso di vari siti per copiare i risultati di qualche ricerca, a poco una percentuale ragionevole di giovanissimi inizierà a leggere qualcosa anche su internet, vero o falso che sia. Ma quanti saranno capaci di distinguere la buona lingua di certi siti dall'italiano coatto di certi blogger? E cosa sarà allora l'italiano medio di domani? Non lo so, perché è tipico di ogni scienza della lingua sapere che non si fanno previsioni sullo sviluppo di una lingua. Continuiamo a parlare di Umberto Eco con Elisabetta Sgarbi, direttrice editoriale di Bompiani per 13 anni, fino al novembre del 2015, quando ha lasciato la casa editrice appena ceduta alla Mondadori e fondato la Nave di Teseo, insieme ad autori come Furio Colombo ed Edoardo Nesi, editori come Mario Andreose e soprattutto con la fortissima convinzione proprio di Umberto Eco, che l'ha finanziata personalmente. La Nave di Teseo ha appena pubblicato il suo primo titolo, che è proprio la raccolta di saggi di Eco, Pape Satan Aleppe, cronaca di una società liquida. Elisabetta Sgarbi, Eco sostiene che per sopravvivere nella società liquida di Bauman è necessario raggiungere la consapevolezza attraverso nuovi strumenti. Per lui la Nave di Teseo era tra questi? Sì, certamente, anche se Umberto Eco ci teneva a dire che la Nave di Teseo era una casa editrice fondata da lui, ma non fondata su di lui. E che la Nave di Teseo sarebbe stata la sua casa editrice e lui ne sarebbe stato un autore. Certamente attraverso questo libro, dove lui per 15 anni osserva la nostra società dal 2000 a oggi, ecco, vede con questo libro il senso delle cose banali, perché la sua straordinarietà stava proprio in questo, cioè che Aristotele, San Tommaso, Joyce, la semiotica erano servite a Umberto per vedere il senso nelle cose banali, quindi gli sono serviti a parlarci dei telefonini, delle trasmissioni televisive, di tutti i gesti di maleducazione, di tutte le nostre ossessioni, della nostra volontà di essere sempre al centro delle cose. Quindi è uno sguardo in dove si avverte anche questa nostalgia di un passato, di Umberto Eco, nel vedere il rapporto tra i vecchi e i giovani. Il nome, la Nave di Teseo, come è stato scelto? Viene da Plutarco e ne abbiamo parlato molto con il professor Eco. La Nave di Teseo, alla fine, concentrando l'attenzione sulla nave, aveva dato l'idea che in fondo ci rappresentasse, perché la parte editoriale della Bompiani è uscita pesantemente dalla Bompiani per trasferirsi nella Nave di Teseo e quindi siamo gli stessi, abbiamo sostituito i pezzi, abbiamo costruito una nuova nave che somiglia molto nel DNA, negli intenti, negli obiettivi, nella voglia di essere editori a quello che era la Bompiani, però non più la Bompiani, e quindi questo è un riferimento proprio a un passo nelle vite di Plutarco in cui si parla di questa nave dove venivano sostituiti i pezzi, quelli che venivano a sostituire i vecchi pezzi sembravano gli stessi e i filosofi discettavano se la nave fosse quella che avevano visto, fosse una nuova, fosse l'una la medesima o no. Marina Berlusconi non le ha venduto la Bompiani. Adesso l'autorità garante della concorrenza ne ha stabilito la vendita entro 15 mesi. Sarà l'occasione di riprovarci? Il tema è complesso anche perché bisognerà capire poi che cosa resterà della Bompiani, nel senso che la Bompiani dovrà avere definito un perimetro che oggi non esiste, perché non esiste come società a sé stante, quindi dovranno creare un ramo d'azienda. Alcuni autori autori centralissimi come Eco, ma anche autori stranieri come Michael Cunningham, Amin Maalouf e altri ancora sono usciti dalla Bompiani. Quindi dovremmo capire che cosa è la Bompiani. Certamente ha un catalogo, un patrimonio legato alla storia della casa editrice che nasce nel 29, così ricco che il desiderio è di provare a riunirsi. Senta, tornando a Umberto Eco, lei ha detto che di fronte a lui provava soggezione, ma a volte aveva dei gesti affettuosi come un padre burbero col figliolo Monello. Com'era lavorare con lui? Ma era certamente straordinario. Io ho lavorato con lui e con Mario Andreose, che poi ha in mano l'eredità di Umberto, nel senso che Eco ha affidato a lui la gestione prima con la Bompiani, perché uscendo dalla Bompiani si doveva trattare per quelli che erano i contratti che rimanevano a Bompiani, e poi ora che non c'è più la gestione delle sue opere. Io e Mario siamo stati a lui molto vicini, per quello che mi riguarda era tutto molto chiaro, cioè non si perdeva un momento, ci si intendeva sulle cose concrete, si analizzavano i testi, si sceglievano per i libri illustrati le immagini. E alla fine, insomma, in questa intesa poi restava, come è successo quando si è fondata la nave di Teseo, anche poi uno spazio all'emotività. Un'ultima domanda: qual è la cosa più importante che le ha insegnato Umberto Eco? La tenacia e credere nelle cose che si fanno, e essere seri e professionali nel proprio lavoro. E capire che la curiosità è un motore molto forte che ti spinge in avanti e anche a conoscere meglio te stesso. Oggi l'attualità la affrontiamo non con un'inchiesta di Giovanna Corsetti, ma con la nostra Sora Cesira, che ci porta nel mondo delle bustarelle. Voi siete in combutta con loro e beccate la nazista, beccate la nazista. Oh! La sveglia ha già suonato, sono le 5:30, 42 chilometri, poi prenderò il metro, 600 euro al mese, mi nutro già di ghiande, ma dove avrò sbagliato non lo so. Poi scopro sul giornale come fare su per giù, a prendere la licenza che non mi arrivava più, a non fare la fila per la casa in cui vivrò e con le buste di Equitalia farci un falò. C'è un sistema lurido, infallibile, triviale che qualcuno usa da un bel po'. Anzi, è disciplina nazionale. Ora finalmente anch'io lo so. Ma sì, ma dai, ma dicelo anche a noi. Sono le bustarelle, le mazzettine, son meglio dei cannoni, spalancano i portoni. Al funzionario le dai tu, ed ogni debito che avevi non c'è più. Poi con le bustarelle, le mazzettine, a piedi pari salti, le gare per gli appalti. E se una pratica sta indietro, beh vabbè, basta una mazzettina e vola tipo un jet. Continuiamo con l'attualità raccontata a modo nostro dalle smamme. Viva la mamma, affezionata a quella gonna un po' lunga, così elegantemente anni 50, sempre così sincera. Ale Cravetto, ma è una nuova sigla, ma chi è? Indovina, prova. La Gelmini. No, sei lontanissima, non sei sull'attualità, non sei sulla palla. Ma è un uomo, è Bertolaso. Ma no, Bertolaso no, dai, è una donna. Comunque ci sei andata vicino, perché Roma c'entra, e Giorgia Meloni. Dopo attenta e ragionata riflessione, che ho deciso di correre. Ma tu correvi incinta? Ma io rotolavo incinta. È una scelta che immaginavo che non vi aspettavate. No, un po'. Che io considero una scelta d'amore. Ma per chi? Amore. Ah, vabbè, sei cinica. Si sa che avrei preferito godermi i mesi della gravidanza, l'ho detto. Godermi i mesi della gravidanza. I mesi forse più belli che una donna. I più belli? Più belli, un incubo la gravidanza. Straordinaria. Però ho sempre considerato che se non ci fosse stata un'opzione migliore questa ipotesi sarebbe rimasta in campo. Lo dico sgomberando il campo sul tema della maternità. C'era un campo per la maternità, però l'hanno sgombrato. C'è un campo per tutto. Come affrontare un momento particolare come quello della gravidanza? Credo che ogni donna sia diversa e che ogni donna debba reagire come crede. Quello che credo però con forza è che nessun uomo possa dire a una donna che cosa può e non può fare in ragione della gravidanza. E questo, Giorgia, lo crediamo anche noi. Con forza. Ecco, con forza. Se non potrei fare il sindaco perché mi ritroverei a allattare mio figlio. Ricordo che in una città che ha come simbolo una lupa che allatta due gemelli non sarà un problema un sindaco. Dicono che, certo, voglio anche dire che farò la campagna elettorale con i tempi di una donna, farò la campagna elettorale con i tempi di una mamma. Non intendo esagerare, non intendo strafare, non intendo fare nulla che sia sbagliato e confido che i romani capiranno, che le romane capiranno, che saranno solidali e che mi aiuteranno lo stesso anche quando magari dovessi sentirmi troppo stanca per fare un evento, un comizio in più rispetto a quello che avrei potuto fare. Troppo stanca? Ma io ero narcolettica, mi addormentavo ovunque. Tu come stavi incinta? Ale, ma come stavo quando ero incinta? Una nausea. Io ho fatto 9 mesi, anzi che poi sono 10, di pizza bianca. Dopo un figurino. Stupendo. 22 kg in più, caviglie gonfie tipo elefante. E vabbè, le caviglie è il problema. Poi tutti comunque dirti, ah, ma che sguardo radioso che hai. Perché si fermano gli occhi. E beh, per fortuna. Senti, allora, lo dico a te ma lo dico anche a Giorgia, ti diamo una mano noi, anzi te lo dà direttamente il Comune di Roma, perché hanno inventato una app che si chiama Appia, a Roma Appia. Ecco, che segnala servizi utili alle donne presenti nel Comune di Roma con 5 aree tematiche diverse: salute, lavoro, famiglia e tempo libero. Ecco, questa qui però alla Meloni non serve, quindi 4 nel suo caso. Tempo libero ne avrà pochissimo. Però comunque Appia, che è fatta apposta per le donne sul suolo romano, ti dà sicuramente degli aiuti e dei servizi utili. Comunque, Giorgia, una cosa te la dobbiamo dire. Quale? Benvenuta nel club delle smamme. Viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti miss del dopoguerra, pettinate come lei. David di Donatella, che poi sono io. Donatella, buongiorno. La verità ti fa male, lo so. Mamma, Donatella, mamma, che bello sentirla di... Donatella, è di buon umore? No. Come no? No, sto solo cantando la canzone della verità, perché il film che ti dico si chiama True, però quel TH che si dice con la lingua tipo sputo, lo sai fare tu? Non so, Donatella, E vuol dire verità, hai capito? Ho capito. E certe volte, anzi tante volte, la verità fa malissimo. Questo invece l'ho capito, Donatella. Sì. Brava. Grazie. Brava. E quindi adesso tu vuoi sapere il film? Beh, non sarebbe male, sì, mi dica il film, Donatella. E questo film è una storia vera, nel senso che è proprio successo davvero. Perché c'è un giornalista famosissimo, americano, che un giorno scopre delle cose che fanno fare una figura di brutta al presidente americano. Quello però un po' scemo, te lo ricordi? Che era figlio di quell'altro... Bush. Lui. Brava, quello. Abbiamo nuove informazioni sul presidente. Trovato? Nascosto in un hotel a 2 isolati da qui. Andiamo. Dan... Il presidente e la sua famiglia avevano forti legami con Al-Qaeda. E lei ha le prove? Hai capito? E scoprono pure che quando stava nell'esercito, lui si imboscava. È come se adesso Bruno Vespa, invece di giocare con gli assassini di plastica, si mette a dire che il presidente dell'Italia da piccolo faceva... Beh, Donatella, va bene così, ma può parlarci del cast, per cortesia? Sì, c'è Robert Redd. Quello biondo che era bellissimo, ma adesso non capisco perché non si fa rifare la faccia, ma come fanno tutti. Donatella, Robert Redford. Lui. . Però se tu non leggi la scritta col nome suo, non lo riconosci, perché ha la faccia veramente spiegazzata. Vabbè, capito? Senta, Donatella, ma invecchiare sarà anche un po' un diritto, no? Sì, certo, però adesso che gli costa andare da uno e aggiustarsi la faccia, scusa? Non mi dire che non c'è il tempo, no? E poi scusa, è anche un fatto di educazione per quelli che vanno al cinema. È come se tu vieni a casa mia a cena. Adesso lascia che io non ti invito. Però se tu vieni e io ti vengo ad aprire con i peli sulle gambe... Ma no, Donatella, ma mi scusi, ma che c'entra adesso? Invece c'entrano, perché uno per educazione deve sempre presentarsi bene, hai capito? Ma non rifarsi la faccia! Sì! Vabbè. Infatti c'è anche quella bionda che se si è rifatta, secondo me un po', comunque si è rifatta bene perché ha la faccia liscia. Quella si dovrebbe chiamare Kate Blanchett. Kate Blanchett. Senta, Donatella, vale la pena vedere Truth? Sì, sì, è un bel film, però ve lo dico, parlano tantissimo. E forse, quindi, se preferite una cosa più spensierata... Che ne so, c'è per esempio Kung Fu Panda 3 e il biglietto costa proprio uguale. Beh, grazie Donatella. Tu la sai la canzone che la verità fa male? Sì. Dai, cantala, dai! Pietrangelo, buongiorno. Buongiorno. Dove si va oggi? Ecco Alessandra, lo vedi, ti sto portando, lo noterai, una masnada di adolescenti. Moltissimi. Vedi, qua sono tantissimi ragazze, ragazzi. Eppure in tutta questa masnada serge un canto di solitudine, ma andiamo a catturare la persona che meglio lo può raccontare, sai. Il diavolo si nasconde sempre dietro le ali di un angelo pazientissimo. Ti presento Michela Palmieri. Michela, buongiorno. Buongiorno. Michela, tu hai scritto questo libro che si titola Tre di una coppia perfetta e racconta la storia di Giulia, Maria e Marco, amici da sempre, legati in un triangolo che sembra destinato a durare per tutta la vita. Ma poi, quando l'amicizia diventa amore, tutto cambia. E allora ti chiedo, un uomo e una donna possono vivere l'amicizia senza complicazioni sentimentali? Nel mio romanzo in realtà è vero che l'amicizia tra i miei tre protagonisti è messa a dura prova dal sentimento che un po' arriva a complicare tutto, che è appunto l'amore. Però in realtà io non l'ho fatto con l'intento per il fatto che siamo di fronte a sessi diversi, quindi due donne e un uomo. In realtà è una difficoltà che non risparmia nessuno, perché Giulia, Marco e Maria sono troppo sicuri forse del loro rapporto e pensano che nulla potrà scalfirlo, e in realtà poi si sbagliano, perché se lo lasci morire un rapporto si dissolve. Capita anche in sodalizi più granitici, come era quello tra i miei tre protagonisti. Senti, nella prima parte del libro si racconta l'adolescenza dei tuoi protagonisti, che vivono una serie di esperienze devastanti che gli faranno sfiorare anche la morte. Ecco, ma oggi gli adolescenti sono più fragili e più soli, oppure è una storia che si ripete eternamente uguale a se stessa? Sì, forse si ripete eternamente uguale a se stessa, perché l'adolescenza è per antonomasia inquieta, come peraltro capita appunto ai miei tre personaggi, che vivono questa irrequietezza che in parte riescono a temperare da questo rapporto a tre, cosa che forse ai giorni nostri succede meno, perché impera l'individualismo, la tecnologia che ti porta a essere sempre più solo. Ecco, così non capita ai miei tre personaggi, perché loro hanno questa amicizia che è fortissima, simbiotica, quasi tossica per certi versi, e addirittura relega la famiglia ai margini, quindi si sostituisce ad essa per arginare la solitudine adolescenziale che esiste sempre. Michela, alla fine il segno di questo sodalizio è comunque la solitudine, ma anche nei rapporti così stretti ci si salva esclusivamente da soli? Ma sì, io alla fine penso di sì, perché Giulia a un certo punto, quando si affranca dai due amici, guarda una figura maschile, che forse è l'unica poi veramente rassicurante del libro, e è quello che diventerà suo marito. E lei dirà che è lui a salvarla da tutti, anche da se stessa, però in verità poi è lei che sceglie e prende strade diverse, e così, proprio così, riesce a salvarsi da sola, poi senza l'aiuto di nessun uomo e di nessun altro. Adesso reclamo un sì o un no. Palmieri, Tre di una coppia perfetta, edizioni Mursia. Allora se ne deduce che l'uno è sempre due. Sì. Bene, sì. Grazie. Grazie Michela. Grazie a voi. Mia bella signorina che ascolti lassù, socchiudi gli occhi e sogna finché c'è la gioventù. Caro Franco, buongiorno. Buongiorno Alessandra. He was the wizard of a thousand kings, and I chanced to meet him one night wandering Questi sono gli Uriah Heep, Cara Alessandra. Il nome ti ha detto tutto. Tutto, onomatopeico, onomatopeico. Uriah Heep. Comunque questo gruppo, heavy progressive inglese, è nato a Londra, pensa, nel 1969. Io non ero nata. Io da poco per già sentivo i loro dischi, che trovo veramente fantastici, rivoluzionari per quel periodo. Allora, l'ultimo loro disco è del 2014, è uscito a giugno, si chiama The Outsider, e da loro lo stanno portando in giro un po' in tutto il mondo. Questa sera, venerdì 18, al Fabric di Milano, è l'appuntamento con gli Uriah Heep alle ore 20. Vado punto e a capo così. Nel 1984 esce Puzzle, il suo sesto disco, che è la consacrazione di Gianna Nannini. Vado dopo... punto a capo, Franco, quanto è bello Vado punto a capo. Bella cosa. Punto a capo. Punto a capo, punto a capo, un titolo meraviglioso. Comunque, lei collabora poi con Michelangelo Antonioni, va al Montreux Jazz Festival, fa tour in tutte le grandi città italiane, comincia anche a arrivare all'estero, dove è apprezzatissima in Germania, Austria e Svizzera. Però domenica 20, dopodomani, ce la possiamo godere qui in Italia, all'Auditorium del Lingotto di Torino, alle ore 21.